Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Il sistema europeo ETS per lo scambio di quote di emissione di CO2 vacilla dopo il no della plenaria del Parlamento europeo, 334 voti contro 315, il no dunque alla proposta della Commissione europea di rinviare le aste per aumentare i prezzi appunto delle quote stesse. Delusa Connie Hedegaard, la commissaria europea all'azione climatica che abbiamo raggiunto poco fa al telefono. Sapevo che il voto sarebbe stato molto serrato, ci ha spiegato. L'ironia della cosa è che la richiesta di intervenire sulle quote arrivava proprio dal Parlamento europeo. Nel giugno scorso Strasburgo ci ha chiesto di intervenire con una proposta, lo abbiamo fatto presentando un documento in luglio e adesso, dopo 9 mesi, ci arriva la risposta negativa proprio su quanto loro hanno richiesto. Sono d'altra parte contenta, precisa la Hedegaard, che immediatamente la presidenza di turno irlandese ha deciso di convocare sulla questione dell'emissione di CO2 un vertice dell'Unione Europea. Insomma, per Connie Hedegaard, lo ricordo, danese, commissario europeo all'azione climatica, la questione è tutt'altro che chiusa. Contro la proposta della Commissione si era espressa tra gli altri la parlamentare europea a capo della Commissione parlamentare Industria, Amalia Sartori. Allora sentiremo perché in GR Europa intorno alle ore 15. Ma ora cambiamo argomento. Draghi, serve la supervisione bancaria prima dell'estate. Riattivare i rubinetti del credito a tassi ragionevoli. Il presidente della BCE Mario Draghi, intervenendo ieri all'Università di Amsterdam, lancia un avvertimento diretto al settore bancario europeo. Se le banche in alcuni paesi non prestano a tassi ragionevoli, le conseguenze per l'Eurozona saranno gravi, denuncia Draghi, che ritiene particolarmente sconcertante che le piccole e medie imprese soffrano più delle grandi aziende, dato che pesano per i 3/4 dell'occupazione. Il presidente della BCE ha lanciato un ammonimento pure ai governi affinché non perdano di vista l'obiettivo di una maggiore integrazione europea al fine di risolvere i problemi strutturali dell'Eurozona. Alla radice della crisi comunitaria c'è il fatto che gran parte dei paesi sotto stress soffrono di una perdita di competitività cronica, ha denunciato Draghi, che ha invocato una volta di più la via d'uscita a ritrovare la competitività attraverso ambiziose riforme strutturali. Il presidente della BCE ha quindi toccato il tema del meccanismo unico di sorveglianza appena approvato a livello comunitario, un primo importante passo verso l'unione bancaria. Sergio Nava, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora lo scandalo della carne di cavallo. Oltre 7.000 i test compiuti nelle ultime 4 settimane negli impianti di trasformazione dell'Unione Europea. Il risultato è che la presenza di carne equina è inferiore al 5% e che di questo lo 0,5% presenta tracce del fenilbutazone, il bute, il farmaco antinfiammatorio usato per curare i cavalli da corsa. Sempre troppo, dice Monique Goyen, direttore generale di ECO, l'organizzazione europea dei consumatori. Faut augmenter les contrôles. Donc il faut augmenter les contrôles. Ces contrôles doivent être des contrôles surprises pour bien vérifier si les entreprises respectent spontanément les règles qui leur sont applicables. Et ce bisogna aumentare aussi, i controlli, dice la Goyens, non sono sufficienti, bisogna fare in modo che le aziende lo facciano e per fare tutto questo bisogna che siano appunto delle operazioni a sorpresa. L'intervista a Monique Goyens è stata realizzata dalle Marcakis di Euronet Plus a Bruxelles. E a proposito ancora di carne, qual è il contributo italiano a questa indagine? Dunque sono 454 campioni. Il 20% di questi sarebbero stati realizzati utilizzando ingredienti di origine diversa da quella dichiarata in etichetta. Valeria De Rosa ha sentito Giorgio Varisco, che è il direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Su questo punto, infatti, il rischio per la salute c'è, come in qualche modo era stato indicato all'inizio dell'inchiesta? Questo era il dubbio che è sorto quando per la prima volta è stata trovata la carne di cavallo all'interno di una carne dichiarata bovina, quindi il dubbio era che questa carne fosse di una provenienza diversa da quella dei canali commerciali regolari. In realtà, da quello che si è evidenziato, abbiamo riscontrato una elevata percentuale di non conformità, cioè di presenza di carne equina in carne bovina, ma in nessun caso sono stati mai trovati segni di trattamento di questi animali, quindi del famoso fenilbutazone o di altre sostanze. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo una opportunità per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione grazie al progetto di dialogo ad alto livello People to People tra Unione Europea e Cina e dal Ministero dell'Educazione cinese. Si tratta della possibilità di usufruire di alcune borse di studio per poter seguire corsi universitari di lingua cinese o programmi di ricerca in una università cinese a scelta. Per seguire i corsi di lingua occorre semplicemente essere cittadini dell'Unione con un diploma di scuola superiore e non avere più di 35 anni. Occorre invece essere studenti universitari da almeno 2 anni per partecipare ai programmi di ricerca. Le borse di studio coprono vitto, alloggio, trasporti, tasse universitarie e una parte dei materiali didattici. Per tutte le informazioni il sito ufficiale è www.cinamission.be. E se fosse impossibile o difficile da ricordare, vi ricordo sempre la nostra mail europa@radio24.it. Con questo è tutto, l'appuntamento a domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.